prendere la parola del professor Paolo Cappellini di Università di Innanzitutto vorrei ringraziare per l'occasione questo colloquio che ho immaginato l'Istituto di Angelo, l'occasione che mi viene offerta e ringraziamento per la tutela che sono le forme del diritto, perché visto che io sono il più competente di tutti, come sempre mi manca pure lontanamente occupato di questo argomento ad oggi, potrei esaurire il mio intervento nel fare un complimento appunto a questo volume, cioè che dopo la sua lettura mi è venuta voglia di occuparmi dell'argomento, non potrei finire quindi. Ma invece mi sembra che qualche suggestione già la lettura non abbia procurato, e quindi io mi inviterei a appunto continuare a voce alta questa lettura e a segnalare le suggestioni e molto spesso forse a formularle sotto forma di interrogativi, come del resto lo stesso. Vorrei cominciare però una forma, se volete, un po' inconsueta, citando un aneddoto che si riferisce tuttavia a una materia di nuovo non è mia specifica competenza, ma che è fondamentale per comprendere il discorso di Prodi, così come del resto risulta anche dalla intitolazione medesima, cioè la questione della Verfassungsgeschichte. Chiaramente questo libro rappresenta anche una realizzazione dell'istituto sotto questo profilo, una media prosecuzione di quelle che sono le sue intenzioni da molti anni. L'aneddoto è il seguente, una forma anche di autobiografia. Jefferson, quando chiamato a redigere la dichiarazione di indipendenza, rimase abbastanza deluso del fatto che poi il suo testo così bello e così ben scritto ai suoi occhi fu però ripreso, rimacinato, rimodificato e non apparve più nella forma in cui l'aveva redatto, perché comunque non era l'unico autore del testo che si mirava a redigere il testo. Benjamin Franklin, per consolarlo, gli raccontò una storia relativa a un cappellaio. E la storia è la seguente: questo cappellaio aveva un negozio e aveva il problema dell'insegna, e aveva pensato di appunto appendere una insegna, una linea di vita con un cappello in cima e con sotto la scritta per i sguardi inglesi sussistente John Thompson, cappellaio che produce e vende cappelli per denaro contante. E Benjamin Franklin racconta a Jefferson che gli amici di questo cappellaio cominciano ad analizzare praticamente, la parola mio va sottolineata naturalmente, questa insegna, e cominciano a dire: ma perché ci hai messo cappellaio? Si capisce, c'è il cappello, la figura, e quindi non c'è bisogno, bella la parola cappellaio. Un altro amico gli dice: è inutile che tu metta e produci cappelli alla gente che ti compra, non interessa affatto che li produce o non li produce, interessa come sono, li vede, quindi via anche la parola cappellare. Poi in seguito, cosa stai a fare che li vendi? Si sa benissimo che non li regali, oppure non li tiri dietro, e quindi anche il vende cappelli scompare. E poi per moneta contante non c'è bisogno, perché è chiaro, la consuetudine della vendita in quel luogo era per contanti, e quindi praticamente tutta la scritta scomparve e rimane soltanto il cappello con la firma sotto John Thompson. Il senso di questo aneddoto e la relazione che ho detto con il discorso del volume cercherò di chiarirlo anche andando più avanti, ma in sostanza quello che voglio sottolineare è che il testo storico-giuridico, storico-costituzionale, in questo senso è un testo che ha bisogno di una firma, ha bisogno di un autore, ma non necessariamente poi l'autore che firma il testo è colui che appare o che compare averlo composto, e comunque il processo che porta gli atti giuridici e giudiziari all'uso della firma è il processo stesso della soggettivizzazione, è un processo legato a una storia occidentale. Questa piccola premessa mi spinge a dividere in due il mio intervento e a sottolineare da un lato le suggestioni metodologiche che il libro mi ha procurato e dall'altro invece di segnalare alcuni aspetti contenutistici. La prima questione metodologica è relativa all'ampiezza stessa della trattazione, almeno Diego mi hanno segnalato questo aspetto, e vorrei citare rapidissimamente la pagina 506, qui si parla della già citata riflessione Machiavelli di quasi 500 anni or sono sulla radicalmente diversa considerazione del giuramento nel mondo tedesco italiano. Sembra riassumere una sconcertante attualità, anche se non bisogna cadere nella trappola di considerare l'istituto del giuramento come immobile e dormiente in questo lungo periodo. Vorrei segnalare anche la sede materia di questa affermazione, cioè il capitolo conclusivo tra passato e futuro. E uno dei motivi dell'interesse di questo libro, secondo me, che mi ha subito colpito e mi ha attratto, è nella passione sottesa alla ricerca. Non si tratta di una ricerca di mera filologia storico-giuridica, storia costituzionale, teologica, eccetera, ma di una ricerca guidata, vorrei dire, in qualche modo dal recupero di una dimensione, un recupero che viene, mi pare, anche consapevolmente proposto come idea tra, diciamo, la sommatoria dei risultati storiografici e il propositivo nella parte finale, su cui vorrei tornare più specificamente, proprio quello della dimensione personalistica della ricerca. Pagina 505, un'altra cosa che mi ha molto colpito è il ricordo, tutt'altro che puramente autobiografico, del maestro Gemignano Morselli e del modo in cui compariva alle riunioni fasciste, appunto questi e contemporaneamente vi è però anche tutta la sua attualità. Questo rischio doveva essere corso perché appunto nella storia costituzionale dell'Occidente istituzione chiesa da fede cristiana sono il tema medesimo della ricerca, non possono esserlo. Per segnalare qual è il tipo di rischio, per virgolette, a cui faccio cenno, mi sono portato dietro un recentemente uscito manoletto di etica della sessualità scritto da un professore ordinario della Pontificia Università di Madrid, che parlando, le molte pagine si possono scegliere, del problema dell'amore coniugale, oltre a discorsi, è un libro fra l'altro interessante perché in realtà è tutt'altro che rigidamente ortodosso nelle soluzioni, la casistica funziona ancora come produttrice di soluzioni per lo meno singolari abnormi. A un certo punto fa questo discorso: se l'amore non ha queste qualità e questa densità, non è un amore totale, esclusivo e definitivo, non si può ricorrere a un'espressione, a un linguaggio come quello della relazione sessuale. Significherebbe frustrare e alienare la persona, ingannando se stessi, ingannando il compagno e ingannando la società. E più sotto cita immediatamente un testo di Ratzinger, che del resto compare anche nel capitolo finale del volume finalizzato. Ciò che costituisce il matrimonio è l'amore personale dei coniugi, quanto più personale tanto meglio, messo tra parentesi Ratzinger, ma in quanto in corsivo accettato ed ordinato dalla comunità. qualunque tentativo di basare il matrimonio, le sue caratteristiche di unità e indissolubilità soltanto sull'amore personale, senza fare riferimento al carattere sociale e giuridico dell'uomo, è destinato a fallire. Un testo sottocitato dello stesso signore dice: è necessario osservare che questo appello alla società, al diritto, non è un elemento occasionale, bensì costitutivo della propria sessualità. Quindi i giuristi si occupano anche di definire giuridica la sessualità medesima, non è una cosa sorprendente del resto. Dicevo il rischio, dicevo il problema. Sicuramente se noi affrontiamo l'analisi della storia costituzionale medievale moderna, dobbiamo dire che per tutta una fase, questa è una tematica che sta affaticando gli storici, i giuristi, gli storici dell'amministrazione, in particolare anche gli spagnoli, non per caso, e tutta una sezione di questa storia è percorsa da un'antropologia, è essenzialmente un'antropologia giuridica, cioè non si può capire il percorso occidentale senza tener conto che il diritto non è semplicemente una struttura esterna che influisce dall'esterno, ma è una struttura che cresce all'interno della soggettività e in qualche modo la determina, e mi sembra quindi che la problematica del discorso dell'istituto sia qui fondamentale. Un altro degli aspetti che mi sembrano appunto decisivi di questo testo è che è un testo fondamentale per ricostruire non soltanto la vicenda dell'istituto giuramento come istituto giuridico, ma proprio per ricostruire la problematica della costruzione della soggettività e della coscienza e dei rapporti tra coscienza interiore, autoconsapevolezza e potere politico. Quindi in questo senso mi sembra che il lavoro di Prodi abbia toccato un punto nevralgico delle ricerche che attualmente si vanno condensando, e lo abbia toccato individuando proprio un istituto che molto più di altri riesce a dare il polso di questa evoluzione della soggettività. Naturalmente sotto il profilo metodologico c'è anche da osservare, e qui ritorno a quella pagina 33 che è stata giustamente prima richiamata, a questa valutazione che parla un altro aspetto di importanza, cioè dice qui basta sottolineare, ripeto rapidissimamente, la nostra divisione classificatoria fra giuramento testimoniale, cioè a dire il assertore, il promesso, la cara lesiva del mondo più intimo, eccetera, eccetera, l'atto sacramentale. Quello che mi interessa è però di sottolineare in questa fase il problema dell'attenzione per le divisioni classificatorie e per il ruolo che svolgono appunto nel costruire i campi testuali. Questa affermazione di Prodi, che è senz'altro condivisibile, poi pone anche, e cercherò di segnalarlo nella seconda parte, pone anche dei problemi di individuazione cronologica dei momenti a partire dai quali tuttavia questa divisione classificatoria diventa assorbente e, come dire, mortifica la natura sacramentale del discorso. Dal punto di vista metodologico, sempre naturalmente ci sono gli altri due aspetti che sono già stati segnalati, non potevano essere così: il problema della secolarizzazione e il problema del dualismo cristiano. Il problema della secolarizzazione vorrei porre, cioè, più che un'affermazione, appunto è un'interrogazione, una domanda, anche a partire dalle ottime riflessioni che Diego Paglioni ha già pubblicato, cioè questa, come dire, presa come architrave dell'analisi interpretativa del discorso rosminiano del cristianesimo come del fenomeno che ha prodotto la costituzionalizzazione del potere occidentale, vorrei porre la questione appunto se tuttavia non fosse possibile problematizzare pure, cioè vedere un po' di più all'interno del discorso sul giuramento anche l'aspetto che Blumenberg chiama di legittimità dell'età moderna, e non è che condivida particolarmente l'atteggiamento e la definizione blumenbergiana, la problematica c'è, cioè la concezione della secolarizzazione è una concezione storiografica e ha origini ben precise. Le fonti che diciamo, tra virgolette, gli autori di riferimento nel discorso di Prodi sono da un lato e direi essenzialmente Weber e dall'altro Carl Schmitt, anche se è un Carl Schmitt mediato dal lavoro di questo suo allievo Friesenhahn, ed è un Carl Schmitt direi valorizzato soprattutto in quanto allievo di Weber. E il nocciolo diciamo della interpretazione emerge alle pagine 496 e seguenti, ed è un nocciolo estremamente rilevante che segnala poi un altro punto che dovrei riprendere dopo. Il problema cioè della esistenzialità del giuramento nella prospettiva schmittiana. Il giuramento appunto per Schmitt si concepisce soltanto laddove prevalgano rapporti di tipo personale. Lo specifico del giuramento è che il giurante si lega con la sua persona esistenzialmente. Il giuramento alla Costituzione costituisce questo legame con la forma di esistenza politica e quindi con la Costituzione sostanziale. Quindi il discorso di Schmitt si fa chiaramente, evidentemente tecnico, richiama la Costituzione sostanziale che probabilmente in ossequio alla tradizione se è imposta in Italia forse doveva essere non dico dal punto di vista dell'esattezza della traduzione, ma dal punto di vista della flessibilità, soprattutto una costituzione materiale. Un nuovo patto costituzionale implica sempre la fondazione di un nuovo status politico per tutti coloro che ne sono coinvolti, come nella vita privata il matrimonio. Sottolineare questo in particolare perché questo fa riferimento alla Confederazione Vassallaggio, non mi sembra meno rilevante perché poi nella conclusione appunto Prodi a pagina 519 quando propone di far riemergere il problema del giuramento come contratto di Stato lo definisce tra virgolette matrimonio politico, se invece di usare questa metafora. E poi appunto c'è una citazione della Verfassungslehre di Schmitt: il giuramento è una manifestazione caratteristica dell'inserimento esistenziale con l'intera persona, esso deve quindi scomparire, e questa è l'indicazione storica diciamo weberiana della secolarizzazione, in un ordine sociale fondato sul libero contratto. Quindi il tema è come dire colpito proprio al cuore, tanto è vero che successivamente Friesenhahn, seguendo questa falsa riga schmittiana, se la prende con Jelinek, chiaramente lo scetticismo di Jelinek, che affermava appunto, anche se il giuramento sembra scomparire del tutto nella vita pubblica, cioè Jelinek appunto affermava di non essere convinto di questo, no? Esso rimarrà sempre necessario qualsiasi siano le formule per assicurare la disposizione interna affinché non si abusi delle libere istituzioni dello Stato moderno per non sconvolgerne le fondamenta. E in sostanza la diciamo così prospettiva schmittiana e del suo allievo viene in definitiva dal punto di vista propositivo rifiutata in maniera molto netta, perché non sembra assolutamente conciliabile con la tradizione contrattualistica dell'Occidente, ma ne viene mantenuto il nocciolo interpretativo, cioè la problematica della scomparsa tendenziale del giuramento nella società nella quale prevale il libero contratto. Diciamo che appunto questa come dire assunzione della analisi schmittiana come filo di ricerca non è fatta in modo assolutamente weberiano e schmittiano, non è fatta in modo assolutamente dogmatico. Ma per riallacciarmi alle osservazioni finali di Antonio, pone il problema di un Occidente chiuso su se stesso. Se io riprendo un altro dei testi che Brodi adora, quello di Kant, lo definisce addirittura appunto una rivoluzione copernicana in tema del discorso sul giuramento, trovo che laddove appunto Kant parla dell'acquisto della sicurezza mediante il giuramento, la posizione negativa, tendenzialmente negativa, che Kant assume al di fuori di altre considerazioni, dunque si ricava anche da una valutazione, diremmo oggi, etnologico comparativa, al di fuori, cioè del discorso occidentale, quanto sia al di fuori poi messa da valutare. E infatti, dice Kant, con pure fantasie si creano motivi di condotta, come per esempio fra i Reiang, due popolo pagano di Sumatra, i quali secondo la testimonianza di Marx giurano sulle ossa dei loro parenti defunti, ma dunque essi non credono affatto che vi sia ancora un'altra vita dopo la morte, o fra i negri della Guinea giurano sul loro feticcio, eccetera, eccetera. In sostanza, cioè, mi domando quanto l'impostazione weberiana che Schmitt recupera, abbiamo visto anche con finalità non soltanto storiografiche, ma di costruttività costituzionale, non come dire, blocchi la riflessione non tanto nella sua fase finale, non tanto quindi in un'apertura verso l'etnologia giuridica, giustamente Brodi ne se ne fa carico e osserva altrettanto giustamente che gli etnologi giuridici, gli etnologi, coloro che si sono occupati di etnologia giuridica, anche il popolo che dice così, non si occupano specificamente dell'argomento. Quanto piuttosto non blocchi nella fase iniziale di questo Occidente la valutazione degli apporti non occidentali alla storia occidentale, per così dire. Questa era una questione che mi si poneva dal punto di vista metodologico. Ora se ne potrebbero accennare varie altre, ma direi di passare rapidamente, anche per non abusare del vostro tempo, a delle suggestioni che invece si riferiscono di più al discorso dei contenuti, che sono evidentemente inesauribili. Questo libro è una vera miniera, se vorrebbe veramente i testi servissero anche appunto ad aiutare ricerche ulteriori. Anzi, una domanda che mi viene spontanea, avendo sentito Paolo Brodi a Firenze, in realtà se questo lavoro continuerà, io lo spiegherei che continuasse in qualche modo, perché credo che una conoscenza delle fonti e della letteratura storiografica alla quale noi dobbiamo qui difficilmente sarà recuperata anche da chi si accosti specialisticamente ad alcuni aspetti. Direi che una delle questioni relative ai contenuti che mi ha particolarmente affascinato è appunto la ricerca della collocazione cronologica di questa lesività classificatoria, questa problematica giuramento assertorio, giuramento promissorio, e il senso che il passaggio verso l'età moderna può assumere in qualche modo. E una, diciamo, mi pare una intuizione che è presente nel discorso di Brodi, che è emersa anche nell'osservazione sulla pericolosità di un giuramento e sulla normità dell'uso del giuramento in età moderna, un uso che ormai si riferisce ai corpi, visto che la credenza delle anime sfuma sempre di più, ma paradossalmente poi sono corpi spiritualizzati che scompaiono alla presa in qualche modo. Uno dei punti che per cui sono fungibili, si possono distruggere con facilità, perché non, in realtà i corpi degli altri non sono reali. Uno dei punti fondamentali di snodo, secondo me, è sicuramente il discorso del juramentum religionis, e Brodi serve anche dell'opera di Schreiner, che ho qui, da cui prendo una suggestione rapidissima. Steiner parla di sforzo moderno, di bisogno di integrazione a partire da un sistema di fede chiuso che fa sorgere a partire dal XVI secolo un aggiornamento di religione formalmente vincolante e definito. A mio avviso può essere, mi sembra che nel testo di Prodi questo emerga, poi ci darò la pagina nella quale ciò viene affermato, che l'epoca moderna, diciamo, sia lo sviluppo di una delle possibilità implicite nel discorso storico cristiano. Possibilità implicita che è determinata dal dualismo cristiano di cui si accennava prima, ma è determinata anche da una ambiguità e da un dualismo interno alla fede medesima del cristianesimo, e ha una problematica che l'età moderna ha in qualche modo probabilmente disconosciuta. È una problematica che, come ci ha insegnato Fögelin, era già nota in qualche modo al profeta Geremia. Geremia si domandava come mai gli ebrei che conoscono il vero Dio lo tradiscono e lo abbandonano, mentre i falsi dei, cioè gli dei patri, gli dei dei pagani, non vengono mai abbandonati. L'ambiguità, appunto, Fögel la individua nella nozione medesima di fede cristiana, e a partire dalla lettera agli ebrei è nota la sostanza di cose sperate, cioè una fede che non può trovare una integrale certificazione istituzionale, una fede che è sempre rimandata a una incertezza, in sostanza, una verità di fede incerta. Ma naturalmente la verità di fede incerta, così come l'incertezza in generale, non è sostenibile, o non è facilmente sostenibile, e non per caso, proprio nei momenti di maggiore espansione storico-istituzionale, il cristianesimo, nel momento appunto nel quale uno dei capitoli più belli è sicuramente quello relativo al cristianesimo radicale, in momenti di maggiore espansione il cristianesimo tende a oscillare verso, invece, il cristianesimo e poi anche coloro che lo hanno criticamente rifiutato nella moderna, a oscillare verso invece una non verità certa, il problema cioè della certezza. E allora il problema della certezza è poi anche il problema della sistematica. Allora qui si può riprendere Kant e guardare l'intitolazione e la collocazione del suo discorso sul giuramento. Il discorso sul giuramento di Kant, appunto, il paragrafo ho citato prima, è dell'acquisto della sicurezza mediante giuramento, cautio iuratorio. Però prima, il capitolo terzo della parte prima è fondamentale. Kant, la parte seconda si riferisce al diritto pubblico, quindi questo capitolo contiene elementi che ancora fanno parte del diritto privato, ma in realtà sono già un momento di trapasso. Il capitolo terzo tratta dell'acquisto soggettivamente condizionato pronunziato dalla sentenza di una giurisdizione pubblica. E Kant dice: la questione non è qui dunque soltanto sapere ciò che è giusto in sé, vale a dire come ogni uomo deve giudicare da se stesso, ma ciò che è giusto davanti a un tribunale, vale a dire ciò che è conforme al diritto. E allora vi sono quattro casi in cui le due specie di giudizi riescono diversi opposti, cui potendo sussistere l'uno vicino all'altro, e ciò avviene perché si derivano da due punti di vista diversi ed entrambi veri, uno secondo il diritto privato e l'altro secondo l'idea del diritto pubblico. Questi sono il contratto di donazione, il contratto di prestito, il recupero o rivendicazione e il giuramento. E poi appunto parla di ciò che accade davanti al tribunale, vale a dire secondo il diritto pubblico, e anche laddove parla del giuramento evidentemente si riferisce soprattutto all'aspetto diciamo pubblicisti del giuramento, davanti al tribunale. E poi, e questa mi sembra un'osservazione molto interessante sullo snodo precedente di cui facevo cenno, sui giuramenti d'ufficio degli amministratori, dei funzionari pubblici. Kant postula un rovesciamento della tradizione, diciamo cristiana manomistica, per capirsi, che predicava il maggiore interesse giuridico, istituzionale e anche teologico del giuramento professore rispetto a quello assettorio, e invece afferma che se i funzionari fossero chiamati non già a promettere prima di assumere l'ufficio di ben comportarsi, ma dopo aver agito a asserire che il loro comportamento è conforme ai doveri, nel testo italiano con una felice traduzione poco corretta dice: ciò sarebbe molto più perturbante per la sua coscienza che non il giuramento di promessa. Nel testo tedesco si parla invece di mettere in movimento la coscienza. Quindi per Kant la certezza del giuramento è legata alla messa, alla mobilitazione, in qualche modo, se posso usare il termine, della coscienza. Ma il problema è la certezza. Hegel si pone nella stessa ottica sostanzialmente. Parla nella tradizione mitologica del giuramento, lo collega al problema dell'acqua, al giuramento degli dei. Lo stige, poi dice: Aetisti, quei che vissero absolute gewissheit meiner selbst, Stigenstand ausprägen. Quindi la certezza assoluta di se stessi, che non può essere fondata su nessun oggetto esterno, e che quindi ha bisogno, per così dire, di un raddoppiamento soggettivo. Il giuramento è questa specie di autocertificazione del soggetto, in sostanza, del soggetto che, come noto, vede nel culmine dello sviluppo secolarizzante, appunto introdotto nell'Occidente dal cristianesimo. Ma dicevo prima che questa esigenza di certezza è collegata probabilmente appunto al richiamo al sistema. E se è vero che probabilmente la definizione sempre di Föderlin della essenza dell'atteggiamento sistematico è quella migliore ai nostri fini, cioè il sistema è innanzitutto un atteggiamento che elimina dal reale alcuni suoi elementi per comprenderlo meglio, e quindi sostanzialmente sistema e finzione sono due concetti apparentati, e ancora più specificamente è un divieto di porre domande. A pagina 401, questo punto mi pare in relazione alla discussione al Tusio, il giuramento nel umanesimo, nel Rinascimento, Erasmo, emerge chiarissimamente, cito solo il problema dell'ira di Dio, no? Il problema cioè che scompare tendenzialmente in età moderna. Dio deve essere buono, non si può adirare, non può somigliare troppo al comportamento umano negativo. Quindi il Dio che punisce e che sanziona lo spergiuro, tendenzialmente la domanda di Lorenzo Valla, ma se non c'è più l'ira, se Dio non si può arrabbiare, perché questa è una visione umana, che fine fa il giuramento sostanzialmente? Appunto Prodi osserva: l'interrogativo di Lorenzo Valla non è ammesso da Altusio. Quindi il divieto appunto di porre delle domande che sarebbero rilevanti, ma che la costruzione moderna non ammette. Il giuramento di religione probabilmente può essere visto anche in questa ottica, forse. E un altro dei punti fondamentali che Prodi affronta, e qui veramente rapidamente concludo, è quello della seconda scolastica. Giustamente nella ipotesi di secolarizzazione viene criticato, pur trovandoci noi di fronte a una critica interna, e quindi non dell'intero paradigma weberiano, ma critica interna al paradigma medesimo. L'impostazione weberiana secondo la quale il mondo moderno nasce principalmente dal protestantesimo. Giustamente Prodi fa osservare come atteggiamenti, impostazioni giuridiche, discorsi, testi contemporaneamente emergano sia in campo cattolico che in campo protestante, di qualsiasi poi confessione si voglia parlare, e la seconda scolastica è sicuramente uno di questi momenti. La seconda scolastica è anche il momento dei quale maggiormente appunto la riflessione sulla doppia classificazione, giuramento assoluto e giuramento promissorio, tende a diventare come dire monistica, cioè a far prevalere il giuramento promissorio e contemporaneamente però a svuotarlo. Faccio solo un accenno, perché è una questione che riguarda poi principalmente il problema dell'autonomia del diritto privato, mi pare che sia inteso abbastanza al tipo di lettura che faccio, che la distinzione fra privato e pubblico, fra settori sistematici, sia rilevante anche per la storia del giuramento e della sua collocazione. Ce lo faccio solo un accenno, la problematica che poi Pufendorf fa esplodere, ma è noto che Pufendorf, anche se non citava, leggeva gli autori della seconda scolastica, la problematica cioè della forza obbligante, della capacità autonoma di creare diritto del giuramento, questa problematica Pufendorf fa esplodere, negando sostanzialmente il ruolo del giuramento, emergeva già nei discorsi, sia pure legati all'atteggiamento casistico e probabilistico, così come Prodi fa ben notare, Melchior Cano, Alessio in nota e Suarez. Vorrei solo, a integrazione di quanto si trova nel testo, far notare che non solo Suarez mette in dubbio che il giuramento sia un atto di religione, ma addirittura cambia il ruolo di Dio in qualche modo, perlomeno lo formalizza, e quindi costruisce un rapporto triadico diverso, inizialmente diverso da quello della tradizione precedente, cioè persuale nel giuramento promissorio Dio, appunto perché si tratta di una azione futura. Qui si apre poi la questione teologica del se si possa accettare la soluzione che Suarez propone, visto che Dio conosce anche il futuro, ma evidentemente Suarez se ne fa carica da risolvere un po' a modo suo. Insomma, per Suarez nel giuramento promissorio Dio non è testimone, ma è invece molto di più, è giuridicamente molto di più. Dio per Suarez nel giuramento promissorio è un fideius, cioè Suarez giuridicizza ancora di più la relazione, ma nello stesso tempo chiaramente la svuota delle sue connotazioni sacre, la spiritualizza in qualche modo, giuridicizzandola in conformità a quella linea di sviluppo che mi sembrava di aver individuato. E di fatto poi la seconda scolastica, quando si propone la grande questione se i giuramenti promissori abbiano la forza di convalidare atti nulli o invalidi, contratti nulli o invalidi, la risposta che emerge, seppure faticosamente, è che sì, quindi anche la problematica della relaxazione, eccetera, eccetera, è che sì, questi giuramenti hanno questa forza, ma non per sé, non facendola scaturire dalla loro autonomia ordinamentale e istituzionale, ma ex adminiculi iuris positivi. Quindi in sostanza la soluzione che la seconda scolastica propone è quella di una tendenziale autonomizzazione del diritto privato, e naturalmente poi a ciò si aggiunge che la soluzione si rafforza laddove la seconda scolastica, almeno in alcuni suoi rappresentanti, meno nei primi ovviamente, valorizza anche la differenza tra la finalità privata, meramente privata, oppure pubblicistica della nullità e della invalidità, in sostanza. Quindi scindendo sempre di più le due sfere, mi pare di aver parlato anche troppo, quindi lascio il faccio.